Cercando di comprendere l'essere umano ci si accorge di andare incontro a tante incertezze, fra le quali però una cosa è sicura. Nell'uomo coesistono due elementi fondamentali che compongono il suo essere. L'essere umano è composto di una parte spirituale, cioè ha un'anima, uno spirito, e una materiale, cioè un corpo. Chi vorrebbe negare questa realtà, chi sostiene che l'uomo sia solo un ammasso di cellule, si trova in gravi difficoltà, dovendo spiegare per esempio come una persona in piena salute e tranquilla vada in collera, nel caso le si arrechi un'offesa. La materia non si offende, non reagisce agli insulti. Perciò, la sola spiegazione è che egli sia dotato anche di una parte spirituale, sensibile ad eccitazioni spirituali. In queste riflessioni, prenderemo in esame la parte materiale dell'uomo, cioè il corpo, perché ancora oggi al cristianesimo viene rimproverata l'avversione per il corpo. Obiettivamente, non è possibile respingere a priori, definendoli infondati, tali rimproveri, almeno per quanto riguarda il passato. A causa della penetrazione di idee gnostiche e platoniche, già nel periodo paleocristiano, la materia venne svalutata nei confronti dello spirito. Il grande filosofo greco Platone diceva: «Il corpo è la prigione dell'anima». Perciò, secondo lui, l'anima, la parte spirituale della persona, per essere libera e pienamente se stessa, doveva sbarazzarsi del corpo, cioè dei condizionamenti negativi imposti dalla materia. Inoltre, anche alcune affermazioni dell'Apostolo Paolo sembrano confermare tale visione, facendo giungere fino ai nostri giorni un forte eco della teologia ostile al corpo. Non possiamo quindi meravigliarci se, ancora oggi, in certi ambienti cristiani vige un certo atteggiamento ostile nei confronti del corpo e della sessualità. Purtroppo, un asceta, nemico del corpo, è spesso anche molto intollerante in questioni dottrinali. La fede in Gesù Cristo non è un affare solo interiore, ma richiede una trasformazione concreta, oltre a una prassi nel definire ciò che sia spirituale e buono. Nelle prime pagine della Bibbia esiste una valutazione sulla creazione che non possiamo ignorare. E Dio vide quello che aveva fatto. Ed ecco, era tutto molto buono. Genesi 1:31. Buono è un giudizio di positività, liderante e definitivo. Giudizio di fronte al quale ogni mentalità, o residuo manicheo, ogni tentativo di contrapporre la materia allo spirito è destinato a naufragare. Come figli di Dio dobbiamo sapere quale posto occupa il nostro corpo nel piano divino. Poiché la materia è nata dal pensiero e dall'opera della sua potenza, conseguentemente vi è una stretta relazione inscindibile fra il corpo e la nostra spiritualità. Essi sono interdipendenti e, nella nostra quotidianità, si intrinsecano a tal punto che è difficile distinguere quale sia la causa e quale l'effetto. Per quanto sane possano essere le motivazioni del nostro spirito, per quanto alto sia il grado di rinnovamento della nostra anima, non raggiungeremo mai il pieno sviluppo di uomini e donne spirituali se il nostro corpo non cammina in armonia con la parte spirituale. Non dobbiamo mai trascurare il nostro corpo mentre ci preoccupiamo dello sviluppo dei componenti interiori. Poiché un figlio di Dio, prima di essere tale, è figlio dell'umanità, dobbiamo trattare il nostro corpo responsabilmente. Una persona che non abbia cura del suo corpo e che trascuri la propria salute è un cattivo amministratore. Disonora così il Creatore, anche se ciò avviene in buona fede. Come trattiamo il corpo è evidente già fin dal mattino. La frenetica vita di oggi ci impone di compiere ogni cosa in fretta, per cui dopo una rinfrescata veloce alla faccia corriamo subito ai nostri impegni. Per quanto mi riguarda, al mattino devo dedicare almeno una ventina di minuti al mio corpo per poter essere in grado di affrontare il peso della giornata. Eccetto in casi eccezionali, si nasce con una buona salute, del mantenimento della quale ciascuno è responsabile davanti a Dio. Mantenere la salute fisica comporta tempo, impegno, intelligenza, perché per natura siamo inclini a sprecare un dono così inestimabile. Quando si è giovani si danno al corpo strattoni non indifferenti di ogni genere, ma con il passare degli anni il corpo, che non dimentica nessuno sgarbo, reclama i suoi diritti. Quanti sono coloro che si trovano ad avere una salute malferma prima del tempo solo perché non hanno seguito norme salutari, sia fisiche che spirituali? La responsabilità è grande, perché se alcuno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui, 1 Corinzi 3,17. È volontà di Dio che i suoi figli siano normalmente sani, a meno che da parte sua non vi sia un altro piano. Non tutti coloro che hanno dato la loro vita a Gesù Cristo hanno compreso che lo Spirito Santo vivifica, fortifica e genera vita non solo alla parte spirituale del nostro essere, ma anche al nostro corpo. La redenzione non è una redenzione fuori dal corpo, ma anche del corpo. Credere a questo significa non chiedere nulla di più di quanto si riceve, ma nemmeno accontentarsi di una misura inferiore della vita abbondante, Giovanni 10,10, promessa dal Signore. E questa abbondanza è riferita anche alla salute fisica. Un fisico sano onora Dio quanto la predicazione del Vangelo, perché alcune malattie, causate dallo stress, dall'ansia, come una obesità dovuta all'incontinenza del cibo, sono segnali di incoerenza che si riflettono sulla parte spirituale e allontanano anche le anime più disposte a vivere per Dio. Chi non sa gestire il proprio corpo, come può pretendere di gestire la parte spirituale? Il corpo che abbiamo ora è definito dalla parola di Dio un vaso di terra, 2 Corinzi 4,7, una tenda, una dimora terrena, 2 Corinzi 5,1, il corpo della nostra umiliazione, Filippesi 3,21. Proprio a causa di una generale errata comprensione di queste locuzioni, il credente è indirizzato a paragonare lo spirito come a qualcosa di superiore e il corpo come a qualcosa di inferiore, più basso, perché legato alla materia, un ingombrante involucro di cui uno vorrebbe liberarsi, una prigione per l'anima. Non ha forse Paolo detto: noi sappiamo che mentre dimoriamo nel corpo siamo lontani dal Signore? 2 Corinzi 5,6. Non è forse il nostro corpo un impedimento per incontrare Gesù Cristo? In questo vi è del vero. Ma l'armonia scritturale ci impedisce di arrivare a conclusioni così negative. Innanzitutto è sbagliato pensare al nostro corpo come qualcosa di aggiunto alla persona. Noi non abbiamo un corpo, noi siamo anche un corpo. Esso fa parte della nostra essenza. E in questa prospettiva che dobbiamo ritenere tutto il nostro essere. L'uomo che l'Eterno Dio ha creato è, sì, anima e spirito, ma anche corpo. Senza il corpo, Adamo ed Eva non sono uomo. Già solo questo fatto deve portarci a ritenere il nostro corpo e conseguentemente le sue peculiarità, maschili e femminili, e le rispettive espressioni fisiche, come un dono da gestire gelosamente. Si può pregare in piedi, seduti o sdraiati, ma essere inginocchiati o prostrati, quando tale atteggiamento è corrispondente alla disposizione che si ha internamente, rende completo il gesto. Riguardo all'espressione sessuale, non vi sono molte indicazioni nella parola di Dio, Cantico dei Cantici 8,3. E certo però che, dove la sessualità non sia espressa e vissuta secondo i canoni della perfetta naturalità, dove quindi vengano a mancare tenerezza e forza, affetto e sensualità, proprio il corpo, particolarmente in quel momento, diventi strumento di rivelazione di ciò che realmente dimora nel nostro essere. Poiché siamo anche corpo, poiché l'atto sessuale è forse una delle espressioni più genuine del nostro essere, il modo personale in cui ciascuno gestisce la sessualità manifesta i pensieri più reconditi nei confronti del proprio partner, se non anche l'immediatezza del proprio carattere. Spesso la camera da letto rivela quanto non riveli un locale di culto. Possiamo ingannare a livello spirituale, ma il corpo non riesce a nascondere nulla. Il nostro volto riflette il nostro stato d'animo, l'atteggiamento che abbiamo verso la vita, anche non volendo, il messaggio che comunichiamo con il nostro volto è costante. Per questo Paolo poteva dire: e noi tutti, contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. 2 Corinzi 3:18. Il volto sereno e fiducioso, lo sguardo limpido, misericordioso e gioioso di un figlio di Dio, è una testimonianza che non lascia indifferenti coloro che gli vivono accanto. Sono ancora toccato dalla testimonianza di una donna che mi stava letteralmente divorando con gli occhi, ed io, un poco imbarazzato, gli chiesi che cosa guardasse. La sua risposta fu: «Sto guardando la luce che vedo nei tuoi occhi». Proprio perché vi è un rapporto sbagliato nei confronti dello spirituale e del materiale, alcuni hanno una fede cristiana molto idealizzata, senza contenuti pratici. Troviamo così dei figli di Dio, molto preparati biblicamente, pronti ad affrontare quasi ogni argomento con una razionalità ineccepibile, disposti ad insegnare e consigliare ad ogni istante. Essi sono coloro che sanno come produrre coscienza e decidere pure che genere di coscienza produrre, ma quando si tratta di scendere nella pratica, hanno un'incoerenza macroscopica, sanno ragionare, verbalmente sono dei maestri, ma nella realtà quotidiana dimostrano un cristianesimo solo teorico, privo di contenuti d'azione. Sono come dei calendari vecchi, inservibili. Come hanno diviso lo spirituale dal corpo? Come ritengono il corpo un impaccio, così hanno diviso la loro razionalità dall'impaccio della praticità. Per anni mi sono chiesto come sia possibile per queste persone una così netta divisione tra il loro ardore virtuale e la pratica. Poi, alla luce di queste riflessioni, tutto mi torna. Se riteniamo il nostro corpo un qualcosa di negativo e, quindi, tutto ciò che comporta il vivere con questo, tale principio si rifletterà inevitabilmente anche in ogni settore della nostra vita. Colui che cerca una comunione con Dio, volendo evadere dalle necessità del corpo o ritenere le necessità corporali, quali mangiare, bere, dormire, sessualità, riposo, svago, cose inferiori allo spirituale, ossia alla preghiera, alla testimonianza, è destinato sicuramente a seguire una fede che, pur sembrando cristiana, di cristiano ha ben poco. Per molti, il pensiero comune è che la vita di Cristo riguardi il nostro spirito e non il nostro corpo. Dobbiamo diffidare d'ogni movimento religioso, d'ogni idea etichettata come cristiana che non considerino d'ugual valore l'essere umano nel proprio intero, che non scorporino lo spirituale dal materiale. Paolo, la cui spiritualità indiscussa, dovette scrivere: «Ora chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa, e quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi dobbiamo farlo per riceverne una incorruttibile. Io dunque corro, ma non in modo incerto. Così combatto, ma non come battendo l'aria. Anzi, disciplino il mio corpo e lo riduco in servitù perché, dopo aver predicato agli altri, non sia io stesso riprovato». 1 Corinzi 9, 24-27. Per l'Apostolo il corpo non era distaccato da lui, ma lo strumento per riuscire nel suo intento di vivere la vita cristiana vittoriosa, per non essere disapprovato in ciò che era spirituale. Essere in grado di controllare le esigenze del corpo significa esserlo anche per i sentimenti dell'anima e dello spirito. Ecco perché dobbiamo dare valore alla nostra fisicità e all'incapacità di non saper controllare alcuni vizi corporali. Gesù mise molto bene in evidenza questo aspetto, quando disse: «La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è sano, tutto il tuo corpo sarà illuminato, ma se il tuo occhio è malato, anche tutto il tuo corpo sarà pieno di tenebre». Luca 11:34. Un occhio abituato a concupire, ad essere maligno, produce nel fisico tensioni e stimoli che non rientrano certamente nella volontà di Dio. Un corpo sano è, dunque, il risultato di uno sguardo benevolo e puro. In merito al tema del corpo, vi è un brano della Scrittura molto significativo: «Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è vantaggiosa. Ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna». Le vivande sono per il ventre e il ventre per le vivande. Dio distruggerà questo e quello. Il corpo però non è per la fornicazione, bensì per il Signore, e il Signore per il corpo. Ora Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi con la sua potenza. Non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò io dunque le membra di Cristo, per farne le membra di una prostituta. Così non sia. Non sapete voi che chi si unisce ad una prostituta forma uno stesso corpo con lei? I due infatti, dice il Signore, diventeranno una stessa carne. Ma chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con lui. Fuggite la fornicazione. Qualunque altro peccato che l'uomo commetta è fuori del corpo, ma chi commette fornicazione pecca contro il suo proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio. 1 Corinzi 6:12-14. L'apostolo Paolo scrive ai cristiani di Corinto che, come tutti i figli di Dio, erano condizionati dalla cultura del luogo. Il tempio dedicato a Venere, chiamata Afrodite in Corinto, non contava meno di 1000 cortigiane fra le sue sacerdotesse che si davano alla prostituzione sacra. La religione corrotta influiva terribilmente sulla moralità della città, e ciò spiega la ragione per cui gran parte della lettera tratti argomenti morali, uno dei quali la sessualità. Eppure dalle due lettere che Paolo scrive ai Corinzi risulta palese il loro gran desiderio di spiritualità. Essi non si accontentavano di un cristianesimo mediocre, desideravano ogni dono spirituale e ardevano dal desiderio di vivere condotti dallo Spirito Santo. Ma anch'essi avevano separato lo spirituale dal materiale. Anzi, proprio perché avevano tracciato una netta distinzione tra lo spirito e il corpo, essi erano caduti in monte in un cristianesimo idealista, mossi da slanci emotivi. Ma noi non possiamo dividere la nostra vita in compartimenti stagni. Secondo il dualismo filosofico di certi corinzi, varrebbe soltanto la realtà della dimensione spirituale a discapito della dimensione materiale. Ma la santificazione riguarda tutta la persona e ogni aspetto della vita. Le parole «ogni cosa mi è lecita» sembra fossero divenute uno slogan per nascondere l'immoralità di alcuni corinzi. Un altro slogan in voga era «le vivande sono per il ventre e il ventre per le vivande». Questi due slogan mettono in evidenza che i credenti di Corinto, quando si trattava di cose relative al corpo, non ragionavano più. Desideravano questo rapporto diretto con Dio. Invocavano Gesù Cristo, pregavano in lingue, ma nella pratica erano adulteri, fornicatori, ubriaconi, sodomiti. Quando i loro stomachi segnalavano la fame, essi mangiavano senza ritegno per soddisfarli, al punto da disprezzare la Chiesa di Dio. Quando i loro corpi davano segni di desiderio sessuale, dovevano soddisfarli subito e in qualunque modo, al punto che vi era una tale fornicazione che non era neppure nominata fra i gentili. 1 Corinzi 5:1. Essi curavano il rapporto spirituale mentre si abbandonavano ad ogni sorta di peccati corporali. Nella loro mente erano per il Signore. Nella pratica, con il loro corpo, trasgredivano i suoi comandamenti. Grandi ideali, poca praticità. E per questo che Paolo ha dovuto dire: glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Il corpo non è un ingombro inutile, non è peccaminoso, non è un accessorio a parte senza valore, non è qualcosa al di fuori di noi. Il corpo è la nostra persona stessa. E essimo uno strumento, assieme all'anima e allo spirito, con il quale si deve glorificare Dio. E essimo l'espressione tangibile di ciò che si pensa. Proprio perché non solo abbiamo un corpo, ma siamo anche un corpo, anch'esso deve esprimere la nostra professione di fede. Diversamente, ad animarci saranno solo slanci emotivi o semplicemente aspirazioni umane, che la Scrittura definisce carnali. Si confonde un assenso intellettuale alle cose spirituali con una conoscenza pratica delle stesse.

L'uomo spirituale, invece, è colui che è nato da alto, che è passato dalla morte alla vita. L'uomo carnale appartiene a se stesso. L'uomo spirituale, al contrario, appartiene allo Spirito Santo di Dio ed è da questo condotto. Ciò che è spirituale non è immateriale, perciò non ha a che fare con il simbolo, con ciò che sia, indica, figurativo, anche espressamente ciò che è proprio dello Spirito, ciò che è condotto dallo Spirito. Il sostantivo typos significa invece forma, figura, immagine. Dobbiamo quindi interpretare il corpo di Cristo non in senso immateriale simbolico, bensì come cosa reale. Stando così le cose, colui che fa parte del corpo di Cristo, unendosi sessualmente con una prostituta diventando in questo modo un sol corpo con lei, pecca contro il corpo di Cristo. La fornicazione non deve essere vista quindi principalmente come una trasgressione morale, ma soprattutto come un peccato, il solo peccato che possa fare di un membro di Cristo, un membro di una prostituta, essendo unito a Cristo. Un figlio di Dio che commetta fornicazione di conseguenza diventa doppiamente colpevole. Termini differiscono. L'aggettivo pneumaticos, in greco, i due. Proprio perché il corpo umano è lo strumento esteriore per servire e glorificare Dio, l'apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, dopo aver esposto le dottrine cristiane, inizia la parte pratica del suo insegnamento, dicendo: «Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio». Romani 12:1. Dopo aver creduto in Cristo quale Salvatore, il credente deve subito offrire il suo corpo a Dio come genuina dimostrazione di aver acquisito coscienza dell'amore di Dio, perché non vi può essere vera fede se questa non è incorporata nella realtà della vita. Le nostre membra sono gli organi della nostra attività in questa nostra esistenza, che Paolo considera come il nostro ragionevole servizio, o culto razionale, come rendono altre traduzioni. Da notare che Paolo non considera culto le preghiere e i CA Nuovo Testamentoi, ma ha una fede espressa tramite il corpo. Bisogna rimarcare questo aspetto, perché si può avere un'intensa vita spirituale, ma non calata nella realtà. Il profeta Isaia ha parlato chiaro: grida a squarciagola, non risparmiarti, alza la tua voce come una tromba, e dichiara al mio popolo le sue trasgressioni e alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Mi cercano ogni giorno e desiderano conoscere le mie vie, come una nazione che pratichi la giustizia e non abbandoni la legge del suo Dio. Mi chiedono dei giudizi giusti e desiderano avvicinarsi a Dio. Isaia 58:1-2. Non possiamo a priori condannare sempre il popolo di Israele, perché alla fine non ha riconosciuto Gesù Cristo quale Dio. Il popolo di Israele ha sempre avuto, come fa oggi, il desiderio di avvicinarsi a Dio, ha spesso desiderato conoscere la volontà dell'Eterno Dio, ha sempre indagato e chiesto quale sia la sua volontà, lo cerca ogni giorno, eppure era un trasgressore. Questo quadro non è molto diverso da oggi. Quanti cercano Dio ogni giorno? Quanti desiderano conoscere la sua volontà, pregano, indagano, leggono la parola di Dio? Ma la loro vita non è diversa da quella di coloro che non conoscono Dio. Sono mentalmente e spiritualmente dalla parte di Dio, ma nella pratica contraddicono la loro professione di fede. Ciò non li unisce a Cristo. Per comprendere meglio l'immagine di Paolo, bisogna ricorrere all'esperienza sessuale. Ciò che fa di due corpi uno solo non sono gli stessi intenti, una profonda intesa, un'armonia di vedute, un rapporto virtuale, ma l'esperienza sessuale. Per quanto se ne dica, è vero, come disse Gesù, che chi guarda una donna con il desiderio di possederla commetta adulterio nel suo cuore. Ma tale adulterio non sarà mai paragonabile all'atto sessuale vero e proprio. Se una intesa spirituale ed emotiva non fa dei due corpi uno solo, così è pure con Cristo. Si possono avere gli stessi obiettivi di Cristo: evangelizzare, servire, Si può essere in armonia con la sua volontà, ma se anche il nostro corpo non è coinvolto nella nostra professione di fede, se il tutto rimane a livello teorico, noi non siamo uno con Cristo. Ebrei 3:14. Il Figlio di Dio è uno con Cristo virtualmente, per la sua posizione, ma non nella pratica. Sempre per mantenere l'immagine del matrimonio, senza il coinvolgimento corporale nell'unione spirituale col Signore, ci si trova ad essere come colui che è sposato, ma che non ha nessuna relazione con la sposa. E sposato virtualmente, sì, su di un pezzo di carta, ma fisicamente, egli è totalmente assente. Il nostro corpo è dunque l'unico strumento perché le verità teoriche diventino concrete, perché le verità del Vangelo possano incarnarsi, affinché siamo simili al nostro Creatore, Gesù Cristo, il quale assunse un corpo per poter essere partecipe della natura dei figli di Adamo, cioè essere uomo in mezzo agli uomini. Non credo che al nostro Creatore mancassero le capacità morali di comprenderci, di essere uno virtualmente con noi. Ma se non avesse assunto un corpo di peccato, se non si fosse stato trovato nell'esteriore simile ad un uomo, non sarebbe diventato uno con gli uomini. Questo fatto onora, una volta per tutte, il nostro corpo, perché noi siamo stati fatti ad immagine della divinità. È vero che nell'essere fatti all'immagine di Dio, in ebraico Elohim, cioè divinità, vi sia l'idea di condivisione della sua natura, cioè personalità, amore e giustizia. Ma tale espressione riguarda anche la nostra triplice composizione, spirito, anima, corpo. Se la divinità non ha un corpo, allora noi non siamo più fatti a sua immagine. E perché non vi siano fraintendimenti, dobbiamo ricordare che non è la divinità ad essersi fatta d'immagine dell'uomo, ma è l'uomo ad essere stato creato ad immagine di Dio, cioè della divinità. Anziché definire Dio un essere antropomorfo, è più corretto riconoscere che è l'uomo ad essere teomorfo. Fu Yahvé Dio, infatti, a creare l'uomo a sua immagine e somiglianza. Yahvé Dio creò l'uomo ad immagine di Dio, dell'Elohim, della divinità. Non vi è rivelazione più grande per ciò che riguarda la nostra natura umana. Proprio perché la materia è nata dal pensiero e dall'opera della potenza di Dio, proprio perché noi siamo anche corpo, ed esso fa parte della nostra essenza. Dio non lo annienterà, lo cambierà però. Non lo rigetterà, ma lo redimerà. Non lo distruggerà, ma vi metterà ordine. Non lo abolirà, ma lo creerà di nuovo. Non lo rovinerà, ma lo trasfigurerà. Come sarà questo corpo? Poiché al tempo degli apostoli, come del resto anche oggi, alcuni negavano la resurrezione, l'apostolo Paolo, nella sua prima lettera ai Corinzi, tratta questo tema in modo dettagliato. Ma dirà qualcuno, come risuscitano i morti e con quale corpo verranno? Stolto, quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. E quanto a quello che semini, tu non semini il corpo che ha da nascere, ma un granello ignudo, che può essere di frumento o di qualche altro seme. E Dio gli dà un corpo come ha stabilito, e a ciascun seme dà il suo proprio corpo. Non ogni carne è la stessa carne. Ma altra è la carne degli uomini, altra la carne delle bestie, altra la carne dei pesci, altra la carne degli uccelli. Vi sono anche dei corpi celesti e dei corpi terrestri, ma altra è la gloria dei celesti, altra quella dei terrestri. Altro è lo splendore del sole, altro lo splendore della luna, ed altro lo splendore delle stelle, perché una stella differisce da un'altra stella in splendore. Così sarà pure la risurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. E, seminato ignobile e risuscita glorioso, è seminato debole e risuscita pieno di forza. E, seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Vi è corpo naturale e vi è corpo spirituale. Così sta anche scritto, il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente, ma l'ultimo Adamo è spirito che dà la vita. Ma lo spirituale non è prima, bensì prima è il naturale, poi lo spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra, è terrestre. Il secondo uomo, che è il Signore, è dal cielo. Qual è il terrestre tali? Sono anche i terrestri. E qual è il celeste? Tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, porteremo anche l'immagine del celeste. Or questo dico, fratelli, che la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio, similmente la corruzione non eredita l'incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. La tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati, poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e questo mortale rivesta l'immortalità. Così quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta: la morte è stata inghiottita nella vittoria. 1 Corinzi 15, 35-55. Il discorso di Paolo è di una logica stringente, maturata da ciò che ci circonda. Ci si chiede come sarà il nostro corpo dopo la resurrezione. Ma come non si può riconoscere nel piccolo seme del papavero il fiore splendido? Come non è possibile intravedere l'enorme e possente quercia in una banale ghianda? O l'abbondanza del melo in un minuscolo seme così? È impossibile discernere nella debolezza del corpo presente il suo futuro aspetto glorioso. Mentre il corpo presente viene definito naturale o animale, il corpo della resurrezione viene definito spirituale. Come abbiamo preso atto, questo termine non significa immateriale, ma appartenente all'ambito dello spirito. Ne è una prova il corpo del Gesù risorto. Quando apparve ai discepoli dopo la resurrezione, disse loro: «Perché siete turbati? E perché nei vostri cuori sorgono dei dubbi? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono io. Toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete, che ho io». E, detto questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché essi non credevano ancora per la gioia, ed erano pieni di meraviglia, egli disse loro: «Avete qui qualcosa da mangiare?» Ed essi gli diedero un pezzo di pesce arrostito e un favo di miele. Ed egli li prese e mangiò in loro presenza. Luca 24, 38-43. Se il corpo risuscitato di Gesù è il modello, se è anche il prototipo di tutti quelli che hanno posto fede in Lui, possiamo trovare nel suo corpo glorioso i tratti fondamentali del nostro corpo futuro. Il corpo della resurrezione può essere visto e toccato, è composto di carne e ossa, può mangiare, non è legato a tempo e spazio, ma soprattutto vi sarà una relazione diretta fra il corpo presente e quello a venire. Coloro che nelle scritture ricompaiono dopo essere morti appaiono sempre simili alle loro forme terrene. Anche Gesù fu riconosciuto dopo la resurrezione come tale. Non vi sono dubbi che i discepoli avessero visto una figura maschile. E Maria al sepolcro, vedendo Gesù risorto, lo scambiò per l'ortolano, non con una presenza femminile. Questo ci porta a comprendere che il corpo della resurrezione avrà le stesse caratteristiche terrestri, quali la sessualità. Gli uomini avranno caratteristiche maschili e le donne femminili. Se la sessualità, come abbiamo rilevato, costituisce una parte del nostro essere o è ciò che attualmente significa essere umani, perdendo tali caratteristiche, in cielo avremo un'altra somiglianza che non è quella di Dio. Il sesso non consiste solo nella capacità riproduttiva, ma esprime la varietà della personalità umana. Poiché la redenzione di Cristo sul nostro essere è totale, alla fine, come ultimo atto, Gesù Cristo distruggerà la morte. Poiché l'uomo è già morto nei suoi falli e peccati, poiché il corpo subisce ogni giorno lentamente il processo della morte, l'ultimo compito del Salvatore sarà quello di dare ai suoi riscattati un corpo incorruttibile. Essi saranno resi simili a lui. Così, ogni seme raggiungerà la maturazione. Il corpo di ognuno avrà un'espressione della realtà dello spirito, uno che lo anima. Il corpo dei salvati porterà l'impronta della santità, realizzata quando erano sulla terra. Il corpo dei perduti porterà l'impronta del loro peccato, che li porterà all'eterna infamia. Poiché siamo abituati a leggere la parola di Dio in senso allegorico, è utile ricordare a questo riguardo ciò che Gesù disse: «Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, ed essi raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e gli operatori di iniquità, e li getteranno nella fornace del fuoco. Lì sarà pianto e stridor di denti». Matteo 13, 41-42. Dato che sia i salvati, sia i perduti, avranno un corpo, e poiché questo corpo non sarà evanescente, ma composto di carne e ossa, e, di conseguenza, per nulla mancante di ciò che abbiamo ora. Il pianto e lo stridor di denti esprimono una delle realtà più crude e terribili per noi, esseri umani. Mentre i salvati brilleranno come le stelle, gioiranno nello spirito, anima e corpo, i perduti soffriranno in un fuoco reale ed inestinguibile, dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. Marco 9, 44-48, nelle pene eterne. Matteo 25, 46. Il messaggio della parola di Dio non poteva essere più realistico e chiaro. Se mediante questo corpo siamo in grado di percepire gioie e dolori, se il corpo è lo strumento sicuro per indicarci la realtà delle cose e che la realtà può essere terribilmente brutta, come in caso di una inaudita sofferenza, o mirabilmente bella come un intenso, giusto, armonioso rapporto sessuale, allora il nostro corpo diventa il più importante mezzo che Dio ha fatto all'uomo per invitarlo ad arrendersi alla sua sovranità e al suo amore. A noi la scelta. La Scrittura riconosce che noi siamo degli dèi, Giovanni 10, 34, perché solo un essere come Dio può opporsi al suo Creatore, ma che questa terrificante libertà non sia usata per non godere della sua presenza con tutto il nostro essere, spirito, anima e corpo. Per quanto mi riguarda, la mia testimonianza si unisce a quella di Giobbe, ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si leverà sulla terra. Dopo che questa mia pelle sarà distrutta, nella mia carne vedrò Dio. Lo vedrò io stesso. I miei occhi lo contempleranno, e non un altro. Il mio cuore si strugge dentro di me. Giobbe 19, 25-27. Che possa essere così, anche per te. Maggio 2003. Ellero.